Speciale rugby, test match. Facciamo il punto sui test match del rugby internazionale a partire da come sono andati ieri gli azzurri. La più grande sorpresa del fine settimana rugbistico è una delle più belle gioie in assoluto per i sostenitori azzurri, tanto fedeli quanto poveri di soddisfazioni. L'Italia cancella la netta sconfitta di 7 giorni prima con la Nuova Zelanda e batte 20-18 il Sudafrica, da cui aveva perso 12 volte su 12. È stata certo una prova di carattere, soprattutto nei 10 minuti con l'uomo in meno a causa dell'espulsione temporanea di Fuser, ma dietro c'era anche un piano di gioco ben studiato e ben eseguito. È stata una giornata all'insegna della più strenua delle difese, ma in avanti gli azzurri hanno giocato bene le loro chance. Mentre ognuno, dai veterani ai due esordienti Ferrari e Quaglio, ha dato tutto quello che poteva. È stato, oggettivamente, anche un brutto Sudafrica, pieno di problemi, ma questo ci interessa per quel tanto, perché quando l'Italia perde, nessuno degli avversari si attarda ad ascoltare giustificazioni. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze. Speciale rugby, test match. In collaborazione con... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione.